vuoi che rompe coglione a casa tua? Tu e quella grande bagasse mamma tua. E quando sei froscio, rota in culo. Froscio! Vieni staccati il telefono stasera perché ti piombo di telefonate, capito? Brutto froscio drogato. Ma che sto dire? Potrei portare la propria parte? Continua, sai, continua. Ma va a fanculo, vai, stronzo.